Nono canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Joachim. Inferno, nono canto. Quel color che viltà di fuor mi pinse, veggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo novo ristrinse. Attento si fermò com'uom ch'ascolta, che l'occhio non potea menare a lunga per l'aere nero e per la nebbia folta. Pur a noi converrà vincer la punga, cominciò il, se non tal ne sofferse, o quanto tarda a me ch'altri qui giunga. I vidi ben sì com'ei ricoperse lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse. Ma non di men paura il suo dir dienne, perch'io traeva la parola tronca forse a peggior sentenzia che non tenne. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado che sol per pena alla speranza cionca? Questa question fec'io, e quei di rado incontra mi rispuose, che di noi faccia il cammino alcun per qual io vado. Verè ch'altra fiata quaggiù fui, congiurato da quella eriton cruda che richiamava l'ombre a corpi sui. Di poco era di me la carne nuda, ch'ella mi fece entrar dentro a quel muro, per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Quella è il più basso loco, il più oscuro, e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so il cammin, però ti fa sicuro. Questa palude, che il gran puzzo spira, cigne d'intorno la città dolente, u non potemo entrar omai sanz'ira. E altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte, che membra femminine avieno e atto, e con idre verdissime eran cinte, serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine, quest'è megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro è a letto, Tesifon è nel mezzo, e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiensi a palme, e gridavan sì alto, ch'i mi strinsi al poeta per sospetto. «Vegna Medusa, sì il farem di smalto!» dicevan tutte riguardando in giuso. «Mal non vengiammo in Teseo l'assalto!» Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di ritornar mai suso. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse, e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. O voi che avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento, per cui tremavano amendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori che fier la selva e senza alcun rattento li rami schianta, abbatte, porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e li pastori. Gli occhi mi sciolse e disse, or drizza il nerbo del viso in su per quella schiuma antica, per indi ove il fummo è più acerbo. Come le rane innanzi alla nimica biscia, per l'acqua si dileguan tutte, finca la terra ciascuna s'abbica, vid'io più di mille anime distrutte fuggir così dinanzi ad un ch'al passo passava stige con le piante asciutte. dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi ch'egli era da ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno ch'i stessi queto ed inchinassi ad esso. Ahi, quanto mi parea pien di disdegno! Venne alla porta e con una verghetta l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. O cacciati del ciel, gente dispetta, cominciò el in su l'orribil soglia, ond'esta oltra cotanza in voi s'alletta? Perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta d'oglia? Che giovane la fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda, e non fe motto a noi, ma fe sembiante d'omo cui altra cura stringa e morda che quella di cui che li è davante. E noi movemmo i piedi inver la terra, sicuri appresso le parole sante. Dentro lì intrammo senza alcuna guerra, e io, ch'avea di riguardar disio la condizion che tal fortezza serra, com'io fui dentro, l'occhio intorno invio, e veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio. Sì come ad Arli, ove rodano stagna, sì come a Pola, presso del Carnaro, ch'Italia chiude e i suoi termini bagna, fanno i sepulcri tutto il loco varo. Così facevan quivi d'ogne parte, salvo che il modo v'era più amaro, che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali eran sì del tutto accesi, che ferro più non chiede verunarte. Tutti li lor coperchi eran sospesi, e fuor n'uscivan sì duri lamenti, che ben pareen di miseri ed offesi. E io, maestro, quai son quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir coi sospiri dolenti? Ed egli a me, qui son li eresi arche con lor seguace d'ogne setta, e molto più che non credi son le tombe carche. Simile qui con simile è sepolto, e i monimenti son più e men caldi. E poi ch'a la man destra si fu volto, passammo tra i martiri e gli alti spaldi. Fine del 9° canto dell'Inferno.